al cielo che si butta giù, sabbia bagnata da lettera che il vento sta portando via, punti invisibili rincorsi dai cani.